Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Benvenuti all'ascolto, cari radioascoltatori, di una nuova puntata e buongiorno a tutti voi. Allora, alcuni giorni fa la Sicilia, nell'edizione di Catania, quotidiano appunto siciliano, titolava in prima pagina, nell'edizione appunto catanese, a Catania 70 negozi col marchio Pizzo Free. Allora, noi siamo abituati a conoscere l'associazione No Pizzo e comunque tutte le associazioni che dicono no al pizzo, soprattutto nell'area del palermitano, soprattutto a Palermo. Ma la Sicilia è grande, è meravigliosa, è enorme e la dignità di questo popolo, non mi stancherò mai di dirlo, corre attraverso tutta quest'isola. La notizia che a Catania ci siano 70 negozi che dicono no al pizzo, a mio giudizio, valeva molto più di un articolo breve, seppure in prima pagina, perché questi sono simboli che valgono più di mille parole della politica parolaia, appunto. Allora, noi quindi vogliamo saperne di più parlando con uno dei primi negozianti, titolare di un caffè libreria a Catania, che espone proprio il marchio Pizzo Free, il signor Antonio Romeo. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno ai radioascoltatori. Allora, tanto per parlare pane a pane e vino al vino, per far capire ai nostri radioascoltatori, una platea composita, se lei espone il marchio Pizzo Free è per due motivi. Primo, perché ha coraggio. Secondo, perché dimostra che la Sicilia è quella che lei rappresenta. Ma anche perché qualcuno le ha chiesto nel passato il pizzo? Sì, io lo espongo come espongo il logo a Dio Pizzo per una testimonianza. Per una testimonianza e per un impegno di civiltà. Credo che lo sento come obbligatorio, non come uno sforzo. Mi sembra una cosa obbligatoria, come quando ci si lava, come quando si mangia, come quando si va a votare. Assolutamente d'accordo con lei, anzi, io la invito a dire dov'è il suo caffè libreria, così i catanesi... Al centro della città, è abbastanza noto perché... Benissimo. È nato 12 anni e mezzo fa, ha avuto una certa risonanza perché settimanalmente organizziamo molte cose, eccetera eccetera. Oh, bene, bene. Allora, bene. Cosa nasce per chiarezza la vicenda? Sì. Come nasce la mia adesione? La mia adesione non nasce veramente dal caffè libreria, perché nel caffè libreria non mi è stata mai chiesta, che è proprio nel centro della città, nella quale io ho fatto il consigliere comunale all'inaugurazione di questa attività commerciale culturale, cioè è venuto spontaneamente il questore, è venuto il prefetto, quindi il segnale di dove ero collocato io era chiaro alla malavita organizzata e al mondo del racket, era chiaro già dalla nascita. Certo. Quindi non vanno a cercarsi i rogni. Beh, certo, non va... Però lei stava dicendo forse qualcos'altro. Allora, cosa accade? Accade che nel frattempo io ho aperto un'impresa di costruzioni. Appena ho iniziato a vendere, si sono presentati, non le sto dire qui le modalità perché non interessa, con una modalità diciamo classica della vigilanza, che vigilanza non era, si sono presentati gli uomini del racket. E lei come ha risposto? Immediatamente sono andato, mi sono rivolto alle forze dell'ordine, segnatamente alla straordinaria nucleo anti-estorsione della polizia di Catania, della squadra mobile, che sono di una professionalità straordinaria, immediatamente alla prima visita degli uomini del racket sono andati e dopo 30 giorni sono stati arrestati in mia presenza proprio in cantiere. Oh, questa è la Sicilia che amiamo, è la Sicilia che è. E che io dico quindi... di più, non voglio correre il rischio di dare una testimonianza intrisa di narcisismo, di protagonismo o di spettacolarità. Io dico a tutti, a quelli che ci ascoltano, che bisogna reagire dal primo momento, perché purtroppo è talmente ampia la platea di operatori, di imprenditori, di commercianti, quel che si vuole, disponibili a pagare, che scappano dalle rogne. Assolutamente, assolutamente. Questa trasmissione serve anche per supportare queste scelte. Io, signor Romeo, la ringrazio per questa sua testimonianza e invito tutti i catanesi che volessero dare la propria testimonianza, il proprio no, in tutte le forme che voi volete, alle associazioni criminali, a scrivere alla nostra trasmissione. La mail è molto semplice: sottotiro@radio24.it. Ringrazio ancora Antonio Romeo, grazie in regia Paolo Corleoni, in redazione Laura Faggin e Roberto Calullo. Vi auguro una buona giornata.